9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 14 di ottobre. Come sempre, prima di entrare nel vivo con il nostro ospite che vi ho annunciato, è il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che in questi mesi è stato uno dei protagonisti del tentativo di apertura del PDL, nel PDL, di un dibattito franco e aperto sulle prospettive politiche del paese, sul futuro del centrodestra, sulla sua guida alle prossime elezioni, qualunque sia la loro data, sui meccanismi democratici che il PDL deve darsi, a giudizio del presidente Formigoni, di confronto di candidature, quindi di primarie per la guida alle elezioni, ma anche a qualunque livello nel partito, aprendo un confronto aperto e votando. Prima di arrivare a questo, un brevissimo flash, come sempre facciamo da molti mesi a questa parte, cioè da quando l'Italia è diventata il banco di prova della tenuta dell'euro e l'Italia viene considerata, ha sempre più scarsa credibilità dei mercati, perché la giornata di ieri è stata una nuova riprova della tesi, non di chi è pessimista a oltranza, non di chi tifa per la speculazione, ma di chi tenta di spiegare agli ascoltatori, come facciamo noi qui da Radio 24, di spiegare ai lettori per chi scrive sulla carta stampata e in televisione ai telespettatori, con un minimo senso di accettabile dovere nella deontologia, che cosa succede al di là e nel rispetto dei legittimi punti di vista della politica, dell'opposizione e della maggioranza. Ecco, a noi sembra che la crisi di credibilità dell'Europa continui, è molto grave, perché dopo le tre settimane dei rally di borsa in cui si era creduto prima al piano salva stati, che non c'è ancora nessun accordo su come potenziare l'FSF, e poi aveva creduto all'annuncio della necessità di ricapitalizzare presto le banche, che sono come al solito la cintura più esterna, quella che può andare più immediatamente in crisi, diventando un contagio mondiale, e su questo il Fondo Monetario Internazionale, l'America, la Cina, tutti hanno detto all'Europa a settembre: ma voi siete pazzi a rimetterci in queste condizioni. Ecco il nuovo annuncio che bisognava ricapitalizzare le banche. Dopo tre settimane il rally di borsa, ecco la amara verità. La verità è che anche sul piano salvaborse, cioè sulla ricapitalizzazione delle borse, la spaccatura è verticale. Ieri in Germania diverse associazioni bancarie, non c'è una sola ABI, ci sono 5 diverse associazioni in Germania che associano il sistema bancario a diverso livello tedesco, hanno detto al governo ufficialmente che questa idea di accelerare le ricapitalizzazioni bancarie, accelerando cioè i coefficienti di capitale, il Core Tier 1 di Basilea 3, il più possibile rispetto al 2013, è a loro giudizio una follia, non la condividono, non desiderano praticarla. Il capo di Deutsche Bank, Joseph Ackermann, ha detto che per quello che lo riguarda farà l'impossibile per evitare ricapitalizzazioni a breve. Ieri al contempo due importanti banche, una svizzera e una americana, hanno redatto una nuova graduatoria delle necessità di capitale di quelle stesse 66 banche di cui a inizio estate abbiamo detto che avevano quasi tutte superate lo stress test, e invece oggi si reputa che ne abbiano bisogno di 220-240 miliardi di euro di capitale nuovo al più presto. E c'è una sfilza di grandi banche europee, da Deutsche Bank a Commerzbank per quelle tedesche, da Société Générale a BNP per quelle francesi, che hanno tutte, ciascuna, bisogno da 12 a 20 miliardi di euro di capitale nuovo. La stima per la grande banca italiana più in condizioni analoghe, cioè più necessitata di capitale nuovo, riguarda Unicredit, con una stima da parte di uno di questi due istituti di 12 miliardi di euro aggiuntivi, l'altro dice 8. Ma ecco, questo è il quadro di fronte al quale, poiché non c'è un accordo sul meccanismo di rifinanziamento delle banche, i mercati ricominciano a capire che la realtà amara è di una probabilità a breve molto elevata, diciamo entro i prossimi 2 mesi, di semi default greco. Non è un mistero per nessuno che si parli ormai della percentuale di taglio dei capelli, cioè di quanto capitale ci devono rimettere i creditori pubblici greci, e la stima è arrivata fino al 60%, e di fronte a questo non ricapitalizzare le banche con un meccanismo solidale significa inevitabilmente una crisi a scacchiera molto grave. Chi volesse chiarirsi ulteriormente le mie idee, le idee, il consiglio che posso dare è quello di leggere oggi Tranchant, nella descrizione della spaccatura, l'editoriale del Sole 24 Ore firmato da Luigi Zingales, che fa chiaramente capire come la politica europea su questo sia molto molto molto lontana dall'aver raggiunto una convergenza, uno schema praticabile a giudizio dei mercati. Ecco, questo è lo scenario nel quale la crisi di credibilità italiana rischia a breve, a brevissimo, di avere nuove accelerazioni, il che significa di accelerare dalla quota 370-390 di spread, già incredibilmente elevata perché viene traslata su imprese e famiglie in costi dei mutui aggiuntivi, in costi degli impieghi aggiuntivi, rischia di strappare verso quota 500, e a quel punto entriamo in allarme rosso, perché nel giro di 72 ore c'è un problema di tenuta di qualche grande banca italiana. In questo quadro è avvenuto il governo è andato sotto 2 giorni fa, in questo quadro sull'assestamento di bilancio, ieri il Presidente del Consiglio si è presentato in Parlamento per chiedere il voto di fiducia. Io mi limito a dirvi come i giornali più vicini al centrodestra oggi giudicano gli interventi del suo intervento di 20 minuti, in cui ha illustrato la strategia in buona sostanza a tirare avanti, mentre c'è il giornale che squilla le trombe a difesa, a quadrato, e quindi fa un titolo: guai a chi molla, e resta quindi sulla linea del chiunque abbia dubbi o avanzi la necessità di iniziative politiche diverse dal andare avanti e resistere è in buona sostanza un traditore. Libero mi sembra, per così dire, più sincero, ecco, nel senso che non fa un'analisi nel suo titolo invece che suonare la tromba, e dice: Silvio è un precario. E nella spiegazione di questo titolo c'è tutto dubbio rispetto a questa strategia del centrodestra, perché dice: probabilmente stavolta il governo la sfangherà, ma il pericolo è tutt'altro che finito. Poi dopo si spiegano i piani per buttare giù il cavaliere e distruggere il PDL, si dice che sono innumerevoli le votazioni al di là della fiducia, in cui oramai la maggioranza rischia di andare sotto nel prossimo futuro, a cominciare dall'atto formale che oggi il Consiglio dei Ministri affiancherà il nuovo assestamento di bilancio. Questo atto formale è la legge di stabilità, sul quale il governo ancora una volta è verticalmente spaccato, perché si tratta di distribuirsi 7 miliardi di taglio dei ministeri, attribuiti ai ministeri e che affiancavano quelli attribuiti alle autonomie, che tanto confusione e tanta protesta, a mio giudizio legittima, hanno suscitato questa estate. E naturalmente l'accordo su questi 7 miliardi di tagli ministeriali non c'è affatto. Leggete sui giornali della protesta del ministro dell'ambiente Stefano Prestigiacomo, che si è vista negli anni azzerata del 90%, ridotto del 90% la dotazione del ministero da 1,4 miliardi a 130 milioni anzi a 127. Il ministro Paolo Romani, il quale non a caso è stato l'affidatario della cabina di regia per il decreto sviluppo che aspettiamo entro il 20 di questo mese, per la settimana prossima, si vede sottratto della quota dei proventi dall'asta per le frequenze LTE della telefonia mobile, che ha chiuso a quasi 4 miliardi e che già da 2,4 di quei 4 erano attribuiti dal decreto estivo a copertura del deficit. Sul resto metà dovevano andare a infrastrutture per l'Italia digitale, e dice però adesso il tesoro: no, non è possibile, dobbiamo destinarle ad altre. Quindi anche Paolo Romani si vede colpito. Vedremo come andrà il Consiglio dei Ministri, ma la previsione di Libero è che naturalmente in Parlamento voti come questi vedranno ballare tantissimo il centrodestra. Ecco, questo è un quadro che a me pare realistico, non viziato da pregiudizi, mi pare un quadro realistico delle difficoltà terribili con cui è alle prese il governo, se ha come strategia solo quella di tirare avanti lo stesso foglio di Giuliano Ferrara. Nella prima colonna, nella prima pagina, dice: il pallottoliere rassicura il cavaliere sulla fiducia, ma il PDL traballa spaurito. Ecco, la questione è questa: nel PDL, nel centrodestra, tentare di confrontarsi su proposte che siano diverse da quelle di andare avanti con una strategia resistenziale, per così dire, significa davvero avere le idee confuse, essere traditori, venire meno al vincolo di fiducia assoluto che si deve al leader che in 17 anni ha cambiato la storia d'Italia, non ci ha consegnato alla sinistra e di volta in volta, tutte le volte che era sconfitto e sembrava morente, poi è risorto e una volta ha perso, sì, ma la volta successiva ha sempre rivinto. Tentare di discutere apertamente e di darsi procedure democratiche di confronto delle leadership e di misurare la leadership per tentare di riscaldare quel che resta del popolo di centrodestra che si vede nei sondaggi quanto è deluso, disilluso, incazzato, significa traballare spauriti o significa invece avere un'idea di rispetto della politica e giocarsi una partita anche per il futuro? Questo è l'interrogativo che sapete quale risposta ha da parte mia, però oggi tentiamo di affrontarlo con chi non si è tirato indietro e di botte neanche preso per quello che ha detto, e questo per me è l'interesse particolare in questo giorno di avere con noi Roberto Formigone per rispondere alle nostre domande ma anche alle domande vostre che chiamerete. Buongiorno e grazie Presidente Formigone. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io comincerei proprio dal voto di oggi, dai voti delle prossime settimane. In che cosa, secondo lei, la fiducia di oggi e il calendario di misure che aspettano il governo a proposito della legge di stabilità cambia il quadro delle uscite che lei ha fatto? Ci sono novità vere o in realtà non si modifica nulla delle richieste che lei ha avanzato quest'estate? No, io credo che quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore, conferma e anzi aggrava la diagnosi che ho fatto nel corso di questi mesi, queste settimane, cioè la necessità per il mio partito, per il Popolo della Libertà, di assumere alcune scelte chiare e di prospettiva a fronte di una situazione nazionale e internazionale che si va facendo di ora in ora sempre più complicata. È chiaro che di fronte a queste gravi difficoltà non possiamo soltanto dire andiamo avanti perché ne abbiamo le legittimità, perché abbiamo i numeri in Parlamento. Io mi auguro stamattina i numeri ci siano numeri forti, perché è una crisi in questo momento che non potrebbe che essere al buio, peggiorerebbe la situazione. Però è evidente che incassato il voto di fiducia, una riflessione strategica sulle cose da fare, sulle forze con le quali farle, si impone. Quello che io chiedo poi formalmente è che gli organi di partito si ritrovino, decidano, c'è un comitato di presidenza presieduto dal presidente Berlusconi, c'è un comitato cosiddetto delle regole attorno ad Alfano che però funziona da segreteria politica, un esame tutti insieme della situazione, perché passato il voto di fiducia di oggi ci sono alcuni provvedimenti importantissimi, decisivi per il futuro del Paese nell'immediato, a parte il fatto di dover riformulare il rendiconto che è stato bocciato inopinatamente martedì scorso ed è un primo passaggio, c'è la legge di stabilità con le discussioni anche accanite che lei ha ricordato, discussioni non fondate sul nulla ma nelle quali si confrontano strategie, dove tagliare, se tagliare, quanto tagliare, e poi c'è importante più che ogni altro provvedimento ai miei occhi il decreto sviluppo, cioè la necessità di dare alcuni provvedimenti di stimolo all'economia che abbiamo promesso da diversi mesi, dalle manovre per rimettere a posto i conti di quest'estate, che è assolutamente essenziale, di fronte al quale non dobbiamo limitarci a dire che tutto andrà bene, ma dobbiamo appunto formulare delle proposte vere e veritiere al Paese e sulla base di questo stabilire anche la strategia politica. Il titolo del Corriere della Sera come sintesi della giornata politica di ieri, del discorso di Berlusconi alle Camere: no alla ricandidatura, il Premier rinvia, virgolette, non posso ancora dire che non mi ripresenterò, finirebbe la legislatura. Richiamo questo titolo perché è stata una dei temi su cui più è tornato, chiedendo appunto primarie qualunque sia la data delle elezioni nel 2013, se ci si arriva ma con una strategia, se no anche nell'ipotesi, attrezzandosi nell'ipotesi che siano nel 2012. Quando lei ha ripetuto, oramai è chiaro che Berlusconi non si ricandiderà, molti le hanno rimproverato all'interno del PDL e sui giornali vicini al PDL, ma quando mai l'ha detto? Questo punto, secondo lei, come sta messo? Ma guardi, che il presidente Berlusconi lo abbia detto più volte è acclarato da tutti, anche da qualcuno che in pubblico ha negato la cosa. In realtà il presidente Berlusconi ha detto questo, però è Berlusconi che deve decidere di confermarlo o di non confermarlo solennemente. A mio avviso, se egli veramente ha deciso, come più volte ha lasciato intendere, che non intende ricandidarsi alle prossime elezioni, quando che esse saranno, sarebbe opportuno che lui lo dicesse in maniera esplicita, perché allora è evidente che il partito dovrebbe assumere un'iniziativa per prepararsi alle prossime elezioni, sapendo di non avere Berlusconi candidato alle prossime elezioni. Quello che invoco è semplicemente una chiarezza, perché mi pare che Berlusconi lo abbia detto, lo pensi, ne sia convinto. Il mio invito a Silvio è: Silvio, se veramente sei convinto di questo, il tuo dirlo pubblicamente costituirebbe una sferzata al partito, a tutti noi, per attrezzarsi in maniera diversa per le prossime elezioni. Quindi è evidente che è una scelta che compete a Berlusconi, però se egli l'ha già fatta, come tutto lascia intendere, il suo annunciarlo pubblicamente e solennemente costituirebbe una sferzata per il partito e permetterebbe appunto di lavorare in questi mesi, oltre che ai provvedimenti del governo che abbiamo ricordato prima, anche ad una strategia di preparazione al meglio anche delle alleanze per la prossima campagna elettorale, perché non è un mistero da questo punto di vista che ci siamo dati l'obiettivo di allargare verso il centro la nostra coalizione, impresa non facile, ma alla quale bisognerebbe da subito accingersi. Facciamo un passo indietro prima di tornare poi alla politica. Ripartiamo dai tagli alle autonomie e alle regioni che l'hanno fatta scattare, insomma, l'hanno fatto alzare il gradino della sua interlocuzione politica con Nazionale. Lei dice nella realtà noi ci hanno tagliato molto più di quello che pesiamo, perché su questi 175 quasi miliardi che sono le spese delle regioni, in realtà il taglio non è la cosa più intollerabile, è che i tagli oramai su di noi gravano per la parte che non riguarda la sanità, che per noi è una funzione delegata da parte dello Stato, e quindi per noi ci sono tagli del 18%, non del 7% come dice il governo, e sono tagli che sono diseguali rispetto a quanto lo Stato pesa sul totale della spesa rispetto a quello che pesiamo noi come regioni. Naturalmente la linea del governo è quella di dire sì, ma la spesa delle regioni è molto più aumentata di quella dello Stato. Di fatto, al di là del fatto che sui numeri non ci si è trovati d'accordo, è una cosa fatta e che resterà così, a suo giudizio, quella dell'incisione avvenuta con le manovre estive, o c'è un modo per tornarci sopra? Allora, innanzitutto mi lasci dire che sui numeri non ci si trova d'accordo perché non si vuole andare insieme a leggerli. I numeri sono una quantità oggettiva, misurabile, basta decidere di andare insieme a vedere le quantità, ma è ovvio che se si andasse insieme a vedere esattamente dove si è tagliato, che cosa si è tagliato, salterebbe fuori quello che abbiamo detto noi, quello che ho detto io, e non quello che il governo ha cercato di far passare. Dopodiché è possibile ritornare, guardi, ci sono due voci sulle quali è impossibile non ritornare, e in realtà si è anche cominciato a ritornare, che sono il trasporto pubblico locale in primis e le spese per il welfare in seconde. Sul trasporto pubblico locale il governo ha accettato, noi lo abbiamo chiesto a gran voce, io l'ho chiesto a gran voce lo stesso giorno in cui con il voto di fiducia veniva approvata la seconda manovra, quella di agosto, dicendo è impossibile che i treni vadano ad aria compressa, se no ci metteremo lì noi presidenti di regione a gonfiarla. L'aria compressa è una battuta evidentemente, ma dipingeva la situazione. I treni già li abbiamo tagliati l'anno scorso, abbiamo aumentato le tariffe, manca questo 1,5 miliardi di euro. Bene, lo stesso giorno il governo ha accettato, io gliene do atto, di aprire un tavolo. Stiamo lavorando da un mese e mezzo, si è ormai, diciamo, appurato concordemente che la cifra è questa, il 1,5 miliardi, anche se ancora il governo la firma non ce l'ha messa sotto. Si sta lavorando, probabilmente si inciderà sull'accisa della benzina per recuperare questi fondi. Il resto sostanzialmente rimangono, è un elemento per cui sono ulteriormente ingiusti a mio modo di vedere questi tagli, è la famosa linearità dei tagli, cioè il fatto che non si è tenuto conto in nessun modo della virtuosità delle amministrazioni virtuose. Tagliare linearmente significa che si va a colpire paradossalmente di più chi in questi anni ha fatto una politica di rigore, chi ha compresso le spese discrezionali, chi ha tagliato dove si poteva incidere negli sprechi, nelle diseconomie. In un'epoca in cui si è fatto del federalismo fiscale, dei costi standard, la parola d'ordine, in realtà queste tre manovre, sia quella dell'anno scorso sia le due di quest'anno, sono state assolutamente uguali per tutti e quindi sommamente ingiuste, perché hanno colpito nello stesso modo lo sprecone e il virtuoso. Ma la risposta che il governo vi ha dato quando avete per esempio chiesto, ma almeno chi è stato capace di risparmiare dei soldi, è il caso della Lombardia, rispetto a chi ha continuato a far deficit e a chiederne, perché a chi ha risparmiato dei soldi e ce l'ha in cassa continuate a dire non potete spenderli? A questa domanda precisa la risposta qual è? La risposta non c'è stata risposta, perché appunto la risposta dovrebbe scontare una irrazionalità del no. E quindi, siccome si vuole dire no, si è costretti a dire no, si preferisce non rispondere. E anche quando noi chiediamo una modifica del patto di stabilità, perché appunto le amministrazioni virtuose hanno in cassa alcuni fondi, la Lombardia ha 4 miliardi e mezzo di euro che abbiamo risparmiato gestendo bene in questi anni le nostre risorse e spiegando ai cittadini che non tutto spendevamo perché ci riservavamo di fare degli investimenti, perché poi questi fondi non sarebbero utilizzati in spesa corrente, ma per fare investimenti. La politica, un risvolto doloroso della politica di tagli di questi mesi è anche il fatto che vengono tagliate soprattutto le spese di investimento. Non ci se ne accorge nell'immediato, ma in una prospettiva che è soltanto di 2 anni, 3 anni, questo diventa drammatico. Quindi noi ci troviamo ad avere 4 miliardi e mezzo di euro in cassa, risparmiati, soldi nostri, risparmiati da noi, dai nostri cittadini, che non possiamo investire perché il patto di stabilità ci impedisce di spenderli. Ora, noi andiamo in pubblicità, io ricordo a tutti che quando il presidente Formigoni dice i tagli lineari che non distinguono tra virtuosi o meno, significa che non distinguono tra regioni che hanno spese infruttuose ben sotto il 10% del totale del bilancio e chi ce n'ha invece fino al 20-30%, a cominciare per esempio dal peso dei dipendenti, e questa è totale cecità rispetto alle condizioni di restrizione della finanza pubblica in cui dovremo muoverci ancora per anni. Buongiorno, allora torniamo in studio, abbiamo con noi il presidente Formigoni, abbiamo fatto un primo quadro PDL, maggioranza, provvedimenti del governo che attendono dopo la caduta e la fiducia che oggi si attende la Camera esprima, siamo tornati sulle polemiche dei tagli alle autonomie e posso fare una domanda obbligata qui per Radio 24, che ne pensa lei dello stallo sulla nomina, l'indicazione e poi la nomina del governatore della Banca d'Italia, il successore di Mario Draghi alla BCE, che proprio in apertura di questo convegno che va avanti in questi giorni alla Banca d'Italia ha annunciato l'Italia non deve illudersi sul fatto che il sostegno, anzi la salvezza, possa poi venire dall'estero. È una chiara chiave di lettura della sua prossima presidenza della BCE, non aspettatevi che da italiano io possa continuare a sostenere a oltranza i titoli del debito pubblico solo in quanto italiano. Cosa potrebbe, cosa dovrebbe fare Berlusconi per uscire dall'impasse secondo lei? Ma su questo io credo che Berlusconi dovrebbe veramente tagliare il nodo gordiano con una decisione che è sua, che compete a lui e che deve assumere. Deve assumere, servirebbe a molte cose, servirebbe a riaffermare la sua autorevolezza innanzitutto. È a lui che gli italiani col voto hanno dato il compito di guidare, di prendere le decisioni difficili, è a lui che compete istituzionalmente indicare questa scelta, compiute le dovute consultazioni con personalità altissime della Repubblica. Tra l'altro la sua scelta, la sua preferenza va nella direzione che sappiamo essere informalmente anche preferita all'interno della Banca d'Italia, quindi credo che gli converrebbe per mille motivi annunciare la sua decisione senza aspettare la fine del mese di ottobre, quindi proprio gli ultimissimi giorni, e facendo capire che il Consiglio dei Ministri è lui che lo guida e che il Consiglio dei Ministri è un organo in cui si decide a maggioranza e secondo la collegialità e non sono possibili veti da parte di nessuno. Ecco, uno dei temi che più ricorre negli sms che iniziano dagli ascoltatori, questi visibilmente sono gli elettori delusi del centrodestra, poi ci sono quelli del centrosinistra che dicono naturalmente nessuna speranza, il centrodestra è finito, Formigoni può dire quello che vuole, ma ce n'è un buon numero invece di elettori delusi, scontenti del PDL, che dicono il problema è che è come se ci fosse una mancanza di coraggio, cioè il problema di dire a Berlusconi guarda Silvio, come si vede bisogna prendere atto del fatto che tu sei diventato, dopo aver guidato tante battaglie negli ultimi 2 anni, più un problema che una soluzione, o affrontiamo col tuo consenso questa situazione con iniziative politiche e riaprendo il dialogo con il paese e il nostro elettorato deluso e con altre parti politiche tipo il centro, oppure inevitabilmente sarà peggio per te, per le tue aziende e soprattutto peggio per un centrodestra. Questa gliela metto lì perché adesso facciamo 2 telefonate, sentiamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori e poi lei risponde agli ascoltatori come a queste osservazioni. Cominciamo con Stefania che chiama da Roma. Prego Stefania. Buongiorno, buongiorno governatore. Io ho una domanda per il governatore sul tema dello sviluppo. E in particolare, tenendo conto delle condizioni in cui si trova il presidente Berlusconi, delle condizioni di governo, e quindi con una Lega che ha preso delle posizioni molto dure, molto rigide sul tema delle pensioni e per esempio sul tema della patrimoniale, quali sono secondo lui le leve che Berlusconi ha per poter agire da una parte sullo sviluppo e dall'altra parte sul debito? Perché se continuiamo a accumulare interessi sul debito che vanificano quindi ogni piccolo sforzo che si fa sullo sviluppo, è il gatto che si morde la coda. Se lui fosse a posto di Berlusconi, cosa sarebbe? Bene Stefania, io ricordo tutti che se noi andiamo avanti a incorporare i 100-150 punti base di aumento dei rendimenti dei titoli pubblici che da luglio in ogni asta abbiamo dovuto registrare per le diverse scadenze, l'effetto, una volta che questa roba dura più di 6-8 mesi, cioè resta stabile, è quello di 1.3 punti di PIL nel giro di 3 anni di maggiori interessi, cioè significa 1.3 che dei 54 miliardi della manovra di agosto, dei 54 miliardi, se continua così, noi ce ne siamo già mangiati 20, cioè se non riotteniamo una credibilità tale da far scendere gli spread sotto quota 200, dove stavano praticamente fino a fine giugno. Ancora Biagio che ci chiama da Milano. Prego Biagio. Buongiorno, la mia è solo una considerazione legata a 28 mila miliardi di evasione fiscale prima dell'euro. Credo che il problema di questo paese sia l'evasione fiscale. Le tasse in Italia sono le più care in Europa, eppure non è stato fatto nulla. La domanda ovviamente va al Presidente. In Lombardia è stato fatto qualcosa? Tutto qui. Nulla, non sono d'accordo. Poi bisogna vedere se è abbastanza ed è fatta col segno giusto, però proprio nulla non è vero, dai Biagio. Claudio da Pesaro, poi passiamo alla batteria di risposte del Presidente. Claudio, prego. Sì, buongiorno. La mia è una domanda un pochino più articolata. Io vorrei fare questo ragionamento. La politica svolge una funzione di mediazione tra la società e diciamo le istituzioni. Io sono un piccolo imprenditore marchigiano, di quelle marche che vengono sempre nominate in tutte le classifiche, che siamo bravi, che facciamo squadra, benissimo. E in questo momento voglio dire al presidente Formigoni, che rappresenta la regione per eccellenza delle attività economiche, dell'imprenditoria, che se non si mette un tubo di ossigeno diretto dalle istituzioni alle imprese, le imprese moriranno, stanno morendo già di fatto, nella mia via metà dei capannoni sono vuoti, brucia una fabbrica alla settimana, eccetera, eccetera, eccetera. Se non si fa un salto diretto, per cui con dei provvedimenti immediati non si trova il modo di abolire Basilea 2, dico delle cose che non sento mai nominare, dei fatti concreti, dei numeri, poi lei Giannino è un economista, se non si capisce che aver ridotto di 5 giorni al mese la possibilità di pagare le ricevute bancarie, noi lo sappiamo, le pagavamo il 5, il 4, il 5 del mese successivo, oggi entro il 30 bisogna averle pagate, in percentuale rappresenta un 15-16% di denaro in circolazione in meno, non si possono più usare gli assegni postdatati, voi lo sapete, una volta certo. Era uso comune, arrivava l'assegno, c'aveva la data di 30, di 60 giorni, lo si girava, erano quattrini anche quelli, tutta questa roba ci ha ucciso, provvedimenti inutili a costo zero per il governo, beneficio zero per l'economia e stanno uccidendo le piccole aziende, le banche. Grazie, non Claudio, hanno più una lira da dare Claudio, a nessuno. La devo interrompere perché è chiaro insomma quello che dice. Qui ci sono due domande sulle strategie economiche, prima di sopravvivenza e poi di lungo respiro sul deficit e debito, ce n'è una sull'evasione fiscale, ce n'è una sul coraggio del centrodestra per assumere un'iniziativa in ogni caso per convincere Berlusconi, un po' come si faceva nella vecchia DC quando c'era un premier che non funzionava più. Naturalmente la differenza è che la vecchia DC era un partito multicorrente, multileader. A chi ha fatto questa riflessione io devo far rimarcare la differenza. Questo è un partito carismatico fondato da Silvio Berlusconi, rimesso in piedi da Silvio Berlusconi con la vittoria elettorale. L'ultima telefonata, Costantino da Milano. Prego Costantino. Ah, buongiorno, senta, io ho alcune affinità col presidente perché sono un tassista da qualche anno di Milano, ma sono nato a Lecco e viaggio in Lexus come il presidente. Però, siccome l'ho conosciuto quando ero giovane, collaboravo con Alba Villa, con i gruppi di diciamo che aiutavano gli spastici nella nostra famiglia, eccetera. Ho assistito anche al suo discorso quando disse che l'unico partito in cui ci si poteva riconoscere all'epoca era la Democrazia Cristiana, e volevo chiedergli, fra l'altro le devo dire che mia moglie, che è un'insegnante, l'ha sempre stimato, però ha perso un po' di stima da quando si è messo con Berlusconi, così crudamente volevo dirgli se non è ora di smarcarsi da Berlusconi, che avrebbe un seguito soprattutto diciamo nelle persone, diciamo anche nei tassisti corretti di Milano. Vabbè, i tassisti corretti, vediamo, eccetera. Chiarissima domanda, Presidente Formigoni, iniziamo a rispondere a un po' di questa raffica. Sì. Partiamo dai temi economici, dove è evidente la lamentela di Claudio, che è la lamentela, meglio la segnalazione sacrosanta della difficoltà di tante, tantissime imprese. Segnaliamo che altre imprese non sono in difficoltà, adesso non è che si può tagliare con la mela, però ci sono molte imprese che hanno fatto innovazione, che hanno investito, che hanno puntato sull'esportazione e che stanno tenendo ancora alti i fondamentali dell'economia italiana, però è indubbio che ci sono delle imprese, non tutte, come dire, viziose, ma alcune che scontano delle difficoltà dovute alla crisi economica complessiva. Ecco, è appunto innanzitutto a loro che deve guardare il governo nel preparare il decreto sviluppo. Lo accennavo prima, ma lo voglio ripetere: dobbiamo mettere dentro questo decreto alcuni aiuti concreti per le imprese e l'altro capitolo che io dico per le famiglie, che sono le due colonne su cui si basa la società italiana, imprese e famiglie, e sono le due realtà più penalizzate da anni, ma soprattutto in questa fase. Come fare? Allora, è chiaro che per famiglie e imprese bisogna far saltare fuori delle risorse. Lasciatemi prenderla più da lontano. Noi possiamo fare delle riforme a costo zero, che sono fondamentali. Tagliare la catena lunga della burocrazia, tagliare la catena lunga delle decisioni. Sono riforme che possono essere fatte da subito, che fanno guadagnare tempo alle imprese, che fanno risparmiare atti burocratici, sono cose che devono essere contenute nel decreto sviluppo. Secondo, possiamo e dobbiamo mettere nel decreto sviluppo dei provvedimenti che almeno in prospettiva fanno saltare fuori delle risorse. Il tema delle dismissioni del patrimonio pubblico statale, che è ancora tanto, il tema delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, una riforma seria della pubblica amministrazione, lo so bene che ci vogliono mesi per mandarla a regime, però una riforma della pubblica amministrazione che vada nella direzione dell'economia. Lei prima, Giannino, citava quello che abbiamo fatto in Regione Lombardia. Capisco che la Regione Lombardia non è lo Stato, però è un sesto dello Stato, non siamo neanche un centesimo dello Stato. Qui abbiamo abbassato il costo della pubblica amministrazione, abbiamo diminuito, non occupando il turnover, il numero dei nostri dirigenti, il numero dei nostri dipendenti. Oggi Regione Lombardia spende in spese improduttive, cioè per le proprie sedi e per i propri stipendi, l'8,5% del proprio bilancio. Siamo indubbiamente l'ente pubblico italiano che spendiamo di meno, le performance del governo sono superiori di 3-4 volte a noi, spengono il triplo e il quadruplo rispetto a noi, quindi lì sono tutti delle materie nel quali si può andare a recuperare risorse che poi appunto devono essere date alle famiglie e alle imprese. Sul tema delle imprese, un discorso che trovo interessante è quello: ci sono incentivi distribuiti a pioggia, spesso non si sa neanche dove vanno a finire, sono stati calcolati in 40-50 miliardi di euro. Eliminare questi incentivi distribuiti a pioggia per fare invece una seria politica di aiuto strutturale, guardando a tutte le realtà delle imprese, non semplicemente con queste misure che privilegiano l'una o l'altra, mi aspetto questo, insomma, dal decreto sviluppo, che ci siano dentro queste riforme a costo zero, l'avvio di queste dismissioni del patrimonio pubblico, che sarebbe fra l'altro un segnale politico straordinariamente importante, e delle risorse per famiglie e imprese. Aspetti, la interrompo, che abbiamo un minuto sulla circolazione stradale e poi riprendiamo dalle famiglie e poi resta ancora il fisco, il coraggio all'interno del centrodestra. Eccoci tornati col presidente Formigoni, eravamo arrivati alle famiglie dopo aver toccato il tema delle imprese. Sul tema delle famiglie, la vera rivoluzione è quella del quoziente familiare, o del cosiddetto quoziente familiare. Qui in Lombardia abbiamo introdotto il fattore famiglia, cioè in tutto tutte le politiche che permettono alla regione di dare una mano a chiunque si tiene conto, abbiamo cominciato a tenerne conto in una maniera iniziale, poi stiamo aumentando la quota del numero dei figli, del numero dei componenti della famiglia a carico di colui che porta a casa un reddito. È chiaro che è diversa la situazione se lavora soltanto uno dei due coniugi o tutte e due, ma è diversa la situazione se uno ha due figli, tre figli, magari un anziano genitore a carico. In Lombardia abbiamo cominciato a farlo, si può farlo. La vera riforma è questa, sarà con la riforma fiscale che il governo ha promesso più volte, che mi auguro venga portata avanti, però deve essere una misura seria, bisogna cominciare a dare il segnale che la famiglia è considerata un investimento strategico. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, beh, anche qui sono d'accordo con lei, non è vero che non è stato fatto nulla, l'Agenzia delle Entrate ha lavorato, anzi c'è stata una fase i mesi scorsi in cui si è accusata l'Agenzia delle Entrate di essere addirittura troppo intrusiva in alcune situazioni di aziende, in alcune situazioni di famiglia. Comunque l'evasione fiscale è certamente uno dei capitoli fondamentali che deve essere fatto, qualunque sia il governo che si trova a reggere. Rendiamoci conto che per diminuire l'evasione fiscale ci vuole anche uno scatto di responsabilità da parte dei cittadini. Il discorso che si fa quando ti viene l'idraulico in casa, quando l'imbianchino ti vernicia la casa, quando il dentista, il medico, quando vai ad acquistare un prodotto e non ti fai dare lo scontrino, è lì che incentivi l'evasione fiscale. Regione Lombardia non ha fatto nulla sull'evasione fiscale, purtroppo non abbiamo fatto nulla, nel senso che non abbiamo potuto fare nulla, non ci è stato dato nessun potere, sono anni che chiediamo al governo di coinvolgere le regioni e i comuni nell'evasione fiscale, dandoci le banche dati, permettendoci di fare un'azione. Forse qualche spiraglio si sta aprendo, il governo ha accettato di discutere di questa materia, vedremo se ci sarà una risposta positiva in questa direzione. E vengo all'ultimo complesso, le due domande, insomma il partito, la mia scelta di partito. Beh, sì, ho militato all'interno della Democrazia Cristiana, la Democrazia Cristiana della Gloria è stata un grande partito, il suo posto nella storia italiana nessuno può negarla. Ho scelto poi convintamente Forza Italia e il Popolo della Libertà perché dentro questi partiti ho trovato lo spazio e la libertà di proseguire la mia battaglia. La mia battaglia è fondata su alcuni valori che sottolineo molto e molto forte, appunto la politica per la famiglia, la politica per la persona, la sussidiarietà che vuol dire l'aiuto all'iniziativa privata, che vuol dire il grande favore dato alle imprese non profit, e credo che qui in Lombardia quello che siamo riusciti a fare assieme ai colleghi di giunta eccetera dimostri questo modo particolarmente accentuato di vivere i valori che sono comuni a tutti nel Popolo Libertà, ma che qui in Lombardia hanno trovato un'evidenziazione in azioni di governo molto e molto chiari. Mancanza di coraggio, ma il Popolo Libertà ha avuto ed ha in Berlusconi il leader, il fondatore, quindi non è possibile, non è pensabile, non ho mai pensato ad una congiura di Valazzo per estromettere il leader. È un ragionamento che dobbiamo compiere insieme, con più coraggio, questo sì, questo ho detto e ribadito prima. Silvio, se hai deciso, come tutto lascia intendere, che non vuoi ricandidarti, dillo con grande chiarezza e lanciamo insieme il discorso di una diversa coalizione, di un allargamento al centro, perché ormai i tempi si sono fatti estremamente stretti e questa nuova alleanza va costruita, altrimenti rischiamo di avere di fronte a noi una sinistra ringalluzzita dalle nostre debolezze che potrebbe puntare alla vittoria e sarebbe un disastro per l'Italia. Io devo dire che guardando qua gli sms, diciamo, dei delusi del centrodestra, ripeto, al netto del fatto che ce n'è almeno altrettanti e molti di più di coloro che ascoltano, non è un sondaggio che invece dicono trasmissione inutile, tanto il centrodestra verrà spazzato via, ma al di là di questo, il senso che viene da molti elettori del centrodestra, la stragrande maggioranza sono del nord, ma è un caso perché c'è gente del sud che dice, anche aggiunge, che il PDL nel sud perde perché poi ha perso di vista la questione del gap meridionale, ma la stragrande maggioranza di quelli del nord dicono: presidente Formigoni, si renda conto che giusto capisco che lei non possa che ragionare così perché Formigoni, perché Berlusconi è il fondatore, ma qui o c'è un'iniziativa presto, rapida, immediata di pezzi del centrodestra che dicono discontinuità, oppure alle elezioni nessuno di noi avrà più la possibilità di convincere nessuno. E questa, secondo me, è gente che vive addentro la crisi di credibilità del centrodestra. Ci sono tantissime che poi protestano dicendo la Lega è diventata un problema aggiuntivo, da che sembrava cannibalizzarsi i nostri voti, stanno messi peggio di noi e si menano. Presidente Formigoni, questo è un po' il punto da tenere chiaro, levate questa musica, poi vi spiegherò perché. L'appello che viene da una parte dei nostri ascoltatori è quello di dire: se Silvio non risponde, bisognerà che facciate comunque. Io glielo giro, perché questa è la cosa che noi ascoltiamo, e le dirò che molti dicono e forse non basterebbe neanche quello. Comunque io ringrazio il presidente Formigoni, tenga conto, ecco, che c'è una parte elettorato che lei sa bene, perché la sa ascoltare, che questo chiede. Non è che questione di avere coraggio, a quel punto poi sono iniziative politiche che corrono il rischio di non poter tornare indietro, è vero o no, presidente? È vero così, ma a chi invoca un'iniziativa dico che sono d'accordo con lui, noi dobbiamo farla, guai a noi se non la facciamo. Ecco perché ho lanciato e continuo a lanciare numerosi allarmi, perché voglio bene ad una prospettiva di centrodestra, diciamola così. C'è una larghissima fascia dell'elettorato moderato italiano che oggi rischia di non riconoscersi più nessun partito. A questi dobbiamo dare risposta, per questi un'iniziativa dobbiamo assumerla in tempi rapidissimi. Va bene, allora io ringrazio il presidente Formigoni. Avrete capito forse da questo accenno che io ho un problema, perché domani Roma rischia di essere un grande problema per un appuntamento per me importante, non voglio dire qual è, che Dio ce la mandi buona, caro Indignados, e per il resto Roma domani di fuoco per chi deve prendere una scelta. Ma non vi preoccupate, io sarò qui lunedì come sempre, e lunedì ne parleremo meglio. Arrivederci.